la nostra solidarietà incondizionata alla resistenza del popolo palestinese contro il colonialismo israeliano che ha fatto di Gaza di fatto una prigione a cielo aperto, ma non soltanto da oggi, ma da ormai più di 50 anni. E quindi la necessità di collegare la questione di Gaza, che non è una questione che riguarda soltanto il popolo palestinese, ma riguarda complessivamente, diciamo, gli oppressi di tutto il mondo, i proletari e le proletarie di tutto il mondo, quella necessità di far sì che la lotta e la resistenza del popolo palestinese si colleghi, si coniughi anche con i conflitti che possono nascere dalle altre parti, in tutte le parti del mondo. È stata una scelta coraggiosa, perché credo che siamo l'unico sindacato che ha avuto il coraggio di convocare uno sciopero generale di 8 ore per la resistenza palestinese, ma proprio per le ragioni che dicevo poco prima. Una giornata importante a cui seguirà il 18 di novembre, cioè il giorno dopo, una manifestazione nazionale organizzata con tutte le associazioni palestinesi, con SGB e con altri, con Plat, col CUEC eccetera, come conseguenza dello sciopero generale del giorno prima. Una mobilitazione che per noi deve continuare, che non può fermarsi il 18 naturalmente, perché quello che sta succedendo in Palestina e quello che sta succedendo in tutto il mondo con la solidarietà che c'è verso la Palestina potrebbe aprire scenari molto interessanti rispetto alla costruzione di un punto di vista differente da quello appunto che viviamo oggi. Tu dicevi poco fa che è stata una scelta coraggiosa, perché anche in Italia, come dire, c'è un pensiero che criminalizza chiunque solidarizzi con la Palestina. Assolutamente sì, infatti la nostra iniziativa non è semplicemente ed esclusivamente solo di solidarietà, ma è anche per cercare di negare la narrazione che fino adesso è stata fatta su questa vicenda. Per noi il 7 ottobre non è stata una operazione sanguinaria, un'operazione violenta di Hamas, ma è stata la congiunzione di elementi politici, organizzativi e del sentire comune della popolazione palestinese che ha deciso appunto e ha spinto per questa azione. I bulldozer che hanno tirato giù il muro che divide l'Israele da Gaza era la forza di centinaia di migliaia e di milioni di persone che con quell'atto hanno detto adesso basta, è giunto il momento di ribellarsi. Questa è la narrazione corretta di quell'episodio, non il fatto che sia stata Hamas. Hamas viene utilizzata per poter giustificare il genocidio che gli israeliani stanno compiendo nei confronti del popolo palestinese. Gli appuntamenti sono domani sciopero generale di 8 ore, dove faremo confluire i nostri lavoratori nelle iniziative dei giovani palestinesi, degli studenti e viceversa. I giovani palestinesi ci hanno chiesto di poter venire a fare i picchetti, e noi domani per esempio a Formigine andremo davanti ad un'azienda di proprietà di 3 ex militari israeliani che ha rapporti economici con l'Università di Modena e con altre società del modenese, e lo faremo insieme alla comunità palestinese. E il giorno dopo, sabato 18, faremo una manifestazione nazionale a favore della resistenza palestinese, che partirà alle ore 15 da piazza 20 settembre e attraverserà il centro.